Tempo di sport. Alla positività, al primo controllo di Danilo Di Luca, ne parleremo tra un istante, parleremo anche di calcio con un occhio alla capitale, al mercato delle squadre della capitale e non solo, naturalmente siete invitati a intervenire su questo e altri temi proposti pure da voi relativamente a quanto diremo tra poco all'800 24 00 24 e con i messaggi SMS al 349 238 6666. Ci sono un po' di notizie anche di agenzia che arrivano in questi minuti relativamente al calcio. L'agente di David Trezeguet, Caliendo, ha detto che sentirà il giocatore e poi andrà dalla Juventus, facendo capire che il Milan ha un interesse crescente nei confronti del suo assistito. Chiaramente per Caliendo questo è un passaggio molto utile per la fase della carriera del suo assistito e il momento in cui la richiesta potrebbe arrivare alla Juventus, mentre è rimandata, secondo quanto dice l'ANSA, a domani la firma di Ibrahimovic. Anche se sulla home page del Mondo Deportivo, quotidiano catalano di Barcellona, ci sono già le pagine di addio a Eto'o, El Leon camerunense, e quelle di benvenuto per Zlatan Ibrahimovic con la nuova maglia del Barcellona. E poi ancora il Milan sconfitto nella notte 2-1 dai messicani del Club America negli Stati Uniti, nell'ambito del torneo che vede coinvolte anche Inter e Chelsea. Ronaldinho, che ha giocato un po' largo a sinistra, ma dice: dietro le punte mi diverto un po' di più. Certo, sa benissimo anche che quello è un ruolo ed è una posizione in cui bisogna correre parecchio e darsi parecchio da fare. Infine, Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli, che se la prende in maniera molto decisa con il Pocio Lavezzi, dice: un giocatore discontinuo, la società è sulle sue posizioni, sbaglia chi lascia la squadra per partire, se un attore si fosse comportato come lui me lo sarei mangiato. Di tutto questo parliamo in apertura con Roberto Cravero, che saluto dopo aver vissuto con lui diversi appuntamenti di Champions e non solo a Mediaset Premium negli ultimi anni. Buon pomeriggio, Cravero. Ciao Massimo, un piacere mio. Ciao Roberto. Dunque, partiamo proprio da Napoli e da questo atteggiamento di De Laurentiis, che è molto deciso, ricorda un po' quello di Lotito nei confronti dei suoi giocatori. La domanda è: il Napoli, così programmato con tutti gli acquisti che ha fatto, può permettersi di rinunciare a Lavezzi al di là delle questioni di principio? Ma io penso che comunque debbano chiarire questo fatto, questo malinteso, chiamiamolo come vogliamo. Non ci può essere una stagione, soprattutto non può iniziare una stagione con rapporti difficili tra società e il giocatore determinante per questo Napoli. Quindi se alla fine ognuno rimane sulle sue posizioni, forse a questo punto è meglio un sacrificio e far arrivare un giocatore in cui credi, in un progetto in cui ha voglia, perché in questo momento mi sembra che Lavezzi non abbia più grandi intenzioni di rimanere a Napoli. Ci sono stati anche giocatori che hanno espresso la volontà di lasciare la Lazio, poi Lotito se ne è uscito con alcune delle sue frasi piuttosto dirette e repentine: chi vuole andarsene porti un compratore, riferimento in particolare a Pandev. È molto più difficile, secondo te, per Ballardini iniziare a lavorare adesso con un gruppo che avvicina i 30 giocatori? Complica molto il suo lavoro, oppure l'idea che lui ha in testa comunque del gruppo titolare può già essere quella su cui iniziare a lavorare? Ma secondo me Ballardini ha i suoi 11 titolari, il problema è che Pandev sicuramente rientra in questi, Ledesma rientra in questo gruppo, quindi è difficile per lui poter cercare di elaborare degli schemi, elaborare un modulo di gioco, se poi alla fine potrebbero questi due uomini essere in qualche modo sacrificati. Questa è la grande difficoltà, cioè quando non c'è chiarezza in una società è un brutto inizio, ci saranno sicuramente problemi con l'andare del tempo. Io penso che una società, una squadra, l'allenatore debbano partire con le idee molto chiare, molto precise, con accordi precisi in cui non si può transigere. Allora a questo punto secondo me le cose possono partire bene, mi sembra che a Napoli e alla Lazio un po' di confusione ci sia. Il fatto che Ledesma, Pandev possano alla fine rimanere con accordi che stanno per essere formulati in questo periodo, per come tu poi conosci la piazza laziale, essendo stato un grande capitano della Lazio negli anni 90, può essere comunque un problema per loro, oppure nel momento in cui poi alla fine rimarranno i tifosi li accoglieranno e sosterranno come fanno con un giocatore che ha dimostrato un attaccamento alla maglia senza alcun dubbio nel corso del suo percorso? Guarda, Roma, la Lazio, ma anche la Roma è una piazza molto esigente, non ti perdona nulla, quindi dipende dalle loro prestazioni. È chiaro che se le loro prestazioni saranno all'altezza della loro fama, nessuno gli dirà niente, ma nel momento che le prestazioni saranno al di sotto, e allora a questo punto qualcuno glielo rinfaccerà, e questo mi riallaccio a prima, perché non c'è assolutamente chiarezza. Cioè, in questo momento Pandev, Zarate, Rocchi, come può Ballardini organizzare qualcosa? Se lascia fuori Pandev perché pensa possa essere ceduto e in seguito poi magari ce lo trova in rosa, e viceversa al contrario, se lo mette in squadra e poi se lo trova ceduto, veramente mi sembra che comunque la frase di Lotito è una frase molto giustificabile: chi vuole andare via porti una cifra e una squadra all'altezza delle possibilità del giocatore, quindi questo ci sta, però secondo me i tempi devono essere precedenti a quelli del ritiro. Cioè, nel momento che dovrebbe almeno essere così, nel momento che una squadra va in ritiro, i giocatori devono rimanere nella rosa e rimangono fino a fine stagione. Roberto, un discorso un po' più ampio, senza entrare poi nei dettagli specifici delle varie squadre, delle varie situazioni, perché ad esempio quella del Bologna è molto intricata anche sul piano societario, sta per passare a un nuovo proprietario, l'albanese Taci, quindi ci sono poi delle situazioni ancora più complesse da analizzare. Però il fatto che squadre come Bologna, Chievo, lo stesso Cagliari, dopo una stagione vissuta in maniera diversa l'anno scorso, però abbiano mantenuto più o meno la stessa ossatura, il Cagliari addirittura ha perso acqua fresca, può essere un limite, soprattutto perché magari l'anno scorso squadre come il Chievo hanno fatto uno sforzo tremendo per raggiungere la salvezza con Di Carlo e probabilmente hanno fatto anche qualcosa in più rispetto al loro potenziale, o è un vantaggio perché alla fine gli allenatori lavorano su un gruppo che già conoscono bene e che può assimilare i loro metodi in maniera più rapida? Massimo, la tua domanda è molto logica, devo dirti. Io penso che il Chievo abbia sempre creato le sue vittorie, le sue salvezze puntando sul gruppo, un gruppo ormai affidabile, un gruppo che Di Carlo conosce molto bene. È chiaro che però, visto il campionato, forse qualche ritocco ci debba essere e ci sarà. Non mi stupisce il Bologna, che comunque con Tedesco, Guana, nonostante tutto ha cercato di rinforzare il reparto più debole dell'anno scorso, sperando chiaramente nel rilancio di Osvaldo, giocatore strapagato che l'anno scorso ha dato effettivamente poco. La cosa che mi stupisce è effettivamente il Cagliari, perché il Cagliari è l'unica squadra che sulla carta si è indebolita. Questo è vero, Acquafresca che è andato all'Atalanta e che con Siena e altre squadre certamente cercherà di progredire ulteriormente con parametri diversi nel corso del suo campionato. Per chiudere, l'anno scorso tu hai avuto occasione spesso, comunque anche in varie fasi dell'anno se non ricordo male, di vedere all'opera il Palermo, forse più all'inizio della stagione che nella fase successiva. Al di là di questo, pensi che sia più rischioso per Zenga essere apportato lì, o più una scommessa ulteriore quella di Zamparini, averlo sottratto in sostanza al Catania, aver puntato su di lui che si è presentato con grandi proclami subito? Qualsiasi allenatore che lavora con Zamparini è a rischio, quindi penso che Zenga abbia il suo da fare, però ti devo dire che Zenga ha dimostrato di essere un signor allenatore, perché quello che ha fatto l'anno scorso col Catania è stato, ti dico, veramente una cosa straordinaria. Cioè Zenga si è salvato a marzo, aprile massimo. E poi purtroppo le ultime partite, nel momento che perdi motivazione, perdi gli stimoli, è chiaro che vai a rovinare tutto quello che di buono hai fatto prima. Però ricordiamoci, il Catania che si salva a marzo è una cosa straordinaria. È andato a Palermo in una piazza forse non più prestigiosa, ma sicuramente dove puoi puntare a qualcosa di più. Io continuo a pensare che al Palermo manchi una prima punta. Avevano puntato su questo ragazzo giovane uruguaiano Hernandez, hanno preso Pastore, però Miccoli benissimo, però non è il bomber che ti assicura i 18 gol. Ecco, gli manca forse per crescere una punta in cui, non dico è la sicurezza, ma nelle sue potenzialità, quei 18 gol che ti permetterebbero di fare il salto di qualità. Senti, per chiudere c'è un messaggio di Maurizio Lavaretto che dice: capitano e grande uomo Roberto Cravero, granata vero. Come va l'estate del tuo Toro? Sempre movimentata, non vi sottraete mai alla vostra storia, eh? Ma noi non possiamo, noi siamo nati per soffrire, soffriamo, ti devo dire, è stata un'annata maledetta, anche se da uomo di sport ti devo dire che c'è stato anche molto di nostro in questa retrocessione. E adesso la Serie B è un campionato sulla carta facile per le neoretrocesse, che hanno sicuramente degli squadroni in confronto alle altre, però poi tu sai che nel calcio c'è quel fattore X che magari ti permette di sbagliare un'annata. Ripeto, non sono soddisfatto, però ad essere tifoso del Toro anche questo. Il destino di Rosina sarà sempre questo: essere legato al Toro, essere salvatore della patria in alcuni momenti, poi essere il primo accusato quando le cose andranno male. Farebbe bene a lui, al club, o non fa bene a nessuno separare le due strade? Io penso che Rosina abbia finito il suo tempo a Torino, nonostante sia comunque un buon giocatore, in cui l'anno scorso forse troppi l'hanno ritenuto responsabile di una situazione, invece poi quando succedono queste cose la responsabilità è di tutti, però si è deteriorato il rapporto con la società, si è deteriorato il rapporto con i tifosi, si è deteriorato molte volte il rapporto con la stampa, con qualche sua svista su internet, e tu sai molte cose che mi riferisco. Quindi secondo me la soluzione migliore sarebbe che comunque dividersi da Rosina, lasci un giocatore, monetizzi e magari reinvesti sul mercato. Grazie Roberto Cravero, a presto, alla prossima stagione. Ciao Massimo, un saluto, un abbraccio. Ciao. Grazie Roberto Cravero, sempre piacevole affrontare temi di calcio con lui. Ora, come spesso succede, ieri un po' meno, devo dire la verità, sarà piacevole farlo anche con voi. Vediamo, Maurizio dalla provincia di Milano, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio anche a voi. Prego. Io volevo fare delle considerazioni, ho sentito prima parlare di Lavezzi. Ecco, io sì, penso che Lavezzi non lasci il Napoli, anche perché è molto amato da noi tifosi. E penso che quello che abbia fatto De Laurentiis è come un padre che diciamo tira su di peso il proprio figlio per le sue marachelle. Ecco, ma al di là di tutto penso che un giocatore che rimanga a Napoli, che rimarrà sicuramente a Napoli, anche perché grazie a Napoli è entrato in nazionale, adesso ultimamente anche Datolo so che è stato convocato. Al di là di questo, nel caso dovesse andare via, abbiamo comunque PA, che secondo me è un giocatore molto amato da Donadoni e anche molto concreto. Non sposta gli equilibri come Lavezzi, però. Sì, sicuramente. Ma la mia domanda era questa. Sì. Io sento che il Napoli manca qualcosa, manca una vera punta, un bomber, come si dice. E io ho sentito parlare che il Napoli è molto interessato a Pozzi, a Rolando Bianchi. E volevo sapere da lei se questi due giocatori, o secondo lei se ce ne sono altri, che possono entrare a far parte dell'organico del Napoli, ecco. Sì, la ringrazio. Pozzi mi sembra che abbia delle potenzialità eccezionali, sia fisiche che tecniche, lo ha dimostrato. Poi sembrava vicinissimo al Toro l'anno scorso, alla fine rimase all'Empoli, forse gli ha fatto bene, forse no. Però è un giocatore sul quale si potrebbe provare a puntare probabilmente. Non è un bomber assolutamente affidabile per la Serie A, per quello che ha fatto finora, però se la piazza di Napoli ha tempo e modo di aspettare un po', questo io non lo so sinceramente, potrebbe essere un giocatore sul quale puntare un po' più rispetto a Rolando Bianchi, che è vero ha fatto una grande annata a Reggio Calabria, però poi dopo che se n'è andato in Inghilterra è tornato, al Toro non ha avuto tutta la fiducia che avrebbe meritato e che sarebbe stata fondamentale per dargli poi modo di esprimere tutte le sue capacità. In questo momento, se il Napoli volesse investire investire su un centravanti, dei nomi che ha fatto lei e che sono i più accessibili anche sul mercato in questo momento, quello di Pozzi è sicuramente adeguato. Quagliarella però è un giocatore che garantisce gol, certo non è un bomber per struttura fisica, non è un centravanti tradizionale, ma ha colpi sensazionali ed è stato pagato moltissimo, quindi evidentemente la società punta su di lui per questo. C'è un tifoso juventino, credo, di Bergamo, Danilo, che dice: venderei Trezeguet e investirei su Drenthe o Dentinho. Sono due giocatori molto diversi, naturalmente, questi che lei nomina. Dentinho è anche molto più giovane, però è una seconda punta. Trezeguet è un centravanti, se la Juve lo vendesse, è vero, avrebbe Iaquinta come alternativa ad Amaury, però venderlo al Milan sarebbe un grande, grandissimo azzardo, e al di là di quanto lei dice e del suo pensiero, che è rispettabile, mi pare di capire che in generale il popolo juventino non sia così dell'idea di cederlo al Milan. Piero da Pisa, buon pomeriggio. Ah, buongiorno. Prego. Sì, dunque, no, io ho chiamato perché ieri lei ha nominato tre giocatori della Juventus in modo piuttosto soft, senza precisare bene. Sì. Sono tre giocatori chiave. Tipo? E volevo possibilmente notizie più precise. Per esempio, intanto ha pronosticato una multa a Iaquinta, non era necessario. I giornalisti, quando si tratta della Juventus, i giornalisti preconizzano temporali quando No, ho solo citato una fonte di un giornale, peraltro anche vicino alla realtà torinese, che diceva giustamente che il regolamento può prevedere che per quanto succede nelle amichevoli ci sia una multa, ma in caso di un atteggiamento molto, molto duro e punibile con qualcosa di più, si può pensare anche che arrivi la squalifica. Però da qui a preconizzare e pronosticare, come forse lei ha capito un po' e come qualcuno sa sui pronostici in generale, io proprio non mi cimento, non sono molto bravo, quindi su questo sicuramente lo escludo. Altro? Appunto, sto dicendolo, volevo sapere notizie più precise su Sissoko, sul quale noi puntiamo molto, ecco, diciamo. E poi perché aveva nominato Amaury, non so bene perché. No, Amaury era il giocatore che era stato espulso contro il Vicenza, e quindi era lui che rischiava qualcosa di più di una multa, secondo quanto appunto era stato riportato ieri dai quotidiani, ma vedremo, non è una cosa così drammatica, è un gesto che, insomma, in un amichevole è inusuale, poi tra giocatori in campo, in alcuni momenti, sotto pressione, sotto grande sforzo in questa fase dell'anno, con tante aspettative, insomma, può succedere anche di questo, non dovrebbe, ma può capitare perché siamo umani. No, quanto a Sissoko, ha un problema ancora relativo a quanto gli era accaduto l'anno scorso, con il piede che gli aveva dato problemi, che lo aveva costretto a un lungo stop, sono stati fatti altri esami radiografici che hanno escluso complicazioni, a quanto ha riferito lo staff medico della Juventus, però starà fermo qualche giorno, e il discorso che facevo ieri molto sinteticamente era che tutti gli allenatori delle grandi squadre in questo momento, non solo in Italia ma anche in Europa, penso a Real Madrid che deve completare la squadra, stanno lavorando all'inizio della preparazione senza avere a disposizione alcuni uomini, e spesso sono uomini determinanti, Eto'o per l'Inter, Kleb per l'Inter ancora, Diego per la Juventus non ha ancora fatto un amichevole con i compagni, e lo stesso Sissoko. Leonardo da Milano, buon pomeriggio. Buongiorno Scalegari, ben ritrovato. Grazie. Senta, io volevo parlare delle polemiche del... Io sono appassionato di sport in generale, sì, però mi dà fastidio queste polemiche di queste atleti che arrivano al quarto posto, accusano giornalisti, arbitri, oppure come si chiamano, quelli che danno i punteggi praticamente, e si lamentano del quarto posto senza accettare il quarto posto che hanno ottenuto. Parlo dei fratelli Marconi, del sincronizzato di ieri, dell'altro ieri e tutto quanto, e poi anche come è successo a Tokyo di quella ragazza di parallele, che poi dopo noi siamo appassionati di sport, sì, no? Sì. E certe sfumature non riusciamo a vedere i difetti della cosa che fanno loro, no? Sì, io credo che i giornalisti si appassionano talmente tanto e poi ci mette in condizione anche noi di credere a quelli che dicono loro. No, beh, questo è chiaro che è un po' di patriottismo, soprattutto in sport in cui non tutti possono avere o hanno una competenza così specifica, può esserci, e quindi questo può condizionare poi le valutazioni, i giudizi. È chiaro che ci si affida molto anche spesso a quanto dicono gli stessi protagonisti. Io penso di capire quello che lei dice sul piano dell'accettare il verdetto. Penso anche di comprendere che in sport in cui il verdetto, il risultato, la prestazione dipendono dal giudizio di persone che sono proprio determinanti per valutare la prestazione, spesso ci possa essere chi non è d'accordo. Il giudizio per definizione è soggettivo e spesso in questi sport come la ginnastica, i tuffi o altro, per pochi centesimi va in fumo o non viene premiato come uno spera il lavoro di tantissimi anni. Pier Augusto Stagi dal Tour de France, per parlare un po' di ciclismo, partendo per impostazione nostra e anche per rispetto di chi per ora perlomeno sta facendo vedere cose interessanti sul piano tecnico, da quello che è accaduto ieri al Tour e da quello che potrebbe accadere oggi. Buon pomeriggio, Pier Augusto. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, ieri intanto abbiamo assistito a una bellissima tappa. Era da settimane che attendevamo una battaglia, volevamo vedere i protagonisti alla frusta e li abbiamo visti. Il tappone alpino, che in poche parole questo Tour de France aveva due momenti chiavi molto molto importanti. Uno era quello di ieri con l'arrivo alle Grand Bonnard, quello dei cinque colli per intenderci, e poi ci sarà quello di sabato col Mont Ventoux, questo monumento storico, questo monumento naturale del ciclismo che ha fatto grande anche il Tour de France. Ieri i protagonisti se le sono date di santa ragione. Dopo 4 km e mezzo una caduta, dopo 10 km cade l'Evans che perde le ruote, quindi l'australiano che è arrivato per due volte secondo al Tour de France in netta crisi, in grande difficoltà, è evidente che la sua preparazione è stata sbagliata e qualcosa non funziona. E poi un gran finale, un gran bel finale con Contador padrone assoluto della corsa, che si è messo lì e ha scelto due paggetti per arrivare al traguardo, questi due paggetti che sono i fratelli lussemburghesi, e Frank e Andy Schleck. Frank che poi ha vinto la tappa per grazia ricevuta, perché sostanzialmente Contador ha rinunciato a far la volata, Andy Schleck ha gioito col fratello. E è vero che Armstrong ha tradito gli accordi? Come ha detto... Contador, è vero che Contador ha tradito gli accordi, sì. Scusa, come ha detto Armstrong. In realtà stamattina c'erano dei pareri controversi. Diciamo, Armstrong, logicamente, che è dall'inizio del tour, che in casa stana a mettere zizzania dalla sera alla mattina, in realtà Contador sembra che abbia detto proprio nelle battute conclusive, e si è anche visto a un certo punto che Contador si rivolge a Claude dicendo scatto, e lui fa sì con la testa, scatta e si stacca subito Claude, cioè non riesce a tenere le ruote. Tant'è vero che poi Contador si gira, vede che dietro di lui ha i due fratelli Schleck e non più Contador, non più Cloden, rallenta e cerca in qualche maniera di farlo rientrare, ma non rientra. Armstrong gli dice invece al contrario, che al mattino gli aveva detto di non attaccare sulla Colombier, di stare passivo, e che invece aveva attaccato, ma in realtà si vede chiaramente a un certo punto proprio che Contador chiede a Cloden, va tutto bene, attacco, e Cloden fa un segno con la testa come in maniera affermativa, vai pure, vai, io ci sono. E poi in realtà, però sono storie, queste sono storie belle di ciclismo che rendono anche, mettono un po' di sale, un po' di pepe e condiscono la corsa. Oggi un altro atto invece molto più importante, qui la strategia conta ma fino a un certo punto, perché è un cronometro individuale, 40 km sì. E mezzo molto dritti, con una sola cotta del 3%, quasi un ponte, non di più. Quindi un cronometro da grandi velocità, per la cronaca sono già arrivati 86 corridori, ormai ne mancano pochissimi, 61 devono ancora partire. Il miglior tempo è quello del russo Ignatiev, che ha 1 minuto e 22 secondi di vantaggio sull'olandese Clement, 1.23 su Grasch e Roger. Ecco, questo per il piacere di raccontare il ciclismo, poi il dovere, la necessità di affrontare anche l'altro tema di grande cronaca di questa giornata, di queste giornate, la positività in due occasioni al Giro di Danilo Di Luca, che dice: non sono stupido a prendere questa sostanza cera che ha da benefici evidenti sul piano delle prestazioni, è quello che diceva anche Riccò quando venne trovato positivo, e Di Luca che dice: se le controanalisi dovessero confermare questo mi ritirerei. Qual è la tua sensazione dopo queste dichiarazioni, dopo questo ennesimo caso di disillusione? Ma intanto, se le controanalisi confermeranno la positività di Di Luca, non sarà lui ad abbandonare il ciclismo, ma sarà il ciclismo a radiarlo, quindi non è lui parte attiva, è assolutamente passiva e dovrà aspettare il responso di un regolamento che, tra l'altro, si parla di 2 anni, ma non è giusto, perché in realtà il nuovo regolamento VADA, sposato il 1 gennaio di quest'anno, parla che per sostanze gravi, cioè quindi doping grave come il CERA, la squalifica è di 4 anni, quindi Di Luca rischia 4 anni, probabilmente la procura antidoping del CONI Torri chiederà per lui anche la radiazione, quindi partirà con la massima pena per poi con ogni probabilità virare sui 4 anni. Qual è lo stato d'animo? Lo stato d'animo è quello dei tifosi, da un lato sconcertato, dall'altro stufo, perché non si può andare avanti così, perché ormai la misura è colma. Il mondo del ciclismo è vero che è uno sport controllato, molto controllato, forse il più controllato di tutti, ma a maggior ragione i corridori devono capire che quando tu hai i gendarmi costantemente nella propria stanza devi agire di conseguenza, devi fare qualcosa per non farti trovare con le mani nella marmellata. Benissimo, il discorso che negli altri sport non avviene non ci sta. In questo momento c'è uno stato dell'arte, il ciclismo è sotto la lente di ingrandimento, i ciclisti devono capire che devono voltare pagina. Grazie Pier Augusto, ci ritroviamo nei prossimi giorni per le battute finali del Tour e evidentemente anche per evoluzioni del caso di Luca, che peraltro non saranno se non di reazioni, perché sul piano ufficiale le controanalisi avverranno il 3 agosto e gli esiti verranno comunicati ancora successivamente. L'accordo è fatto, lo ha detto l'agente di Eto'o, Messias, riferendosi al colloquio durato oltre 2 ore con i dirigenti dell'Inter, e dunque si chiude il cerchio. Eto'o in nerazzurro, Ibrahimovic in blaugrana, come del resto già i quotidiani spagnoli oggi hanno proposto in prima pagina online e in edizione cartacea con i fotomontaggi con la maglia del Barcellona per il giocatore svedese. Molti messaggi da parte vostra a questo proposito. C'è Enrico che dice: come può Eto'o esprimersi al massimo senza un giocatore simile come caratteristica a Messi nell'Inter, che lo mette in condizione di andare a segnare come faceva in Spagna? Al momento in rosa non c'è, è vero, però ci sono anche modi diversi di giocare, e qui starà molto a Mourinho e alla sua capacità di trovare altre soluzioni tattiche e strategiche per innescare Eto'o. Mi sembra interessante il suggerimento di Ruben dalla provincia di Ascoli Piceno, tifoso dell'Inter. Dice: per arricchire la rosa di un giocatore di qualità farei un sondaggio per Robben, visto e considerato che il Real ha speso tantissimo, ha una rosa ampia e deve sfoltirla. Robben mi fa impazzire, dice, è un talento, è vero, purtroppo è anche l'olandese di cristallo, come lo chiamano in Spagna un po' ironicamente. Mourinho lo conosce benissimo, quando lo inserì nel primo anno al Chelsea dopo le difficoltà o comunque una situazione paritaria iniziale con le sue rivali, il Chelsea volò verso la Premier. La sua debolezza fisica sicuramente incide poi anche nelle valutazioni di chi va ad acquistarlo. Infine, molte considerazioni, soprattutto di amarezza e disillusione da parte vostra per quanto riguarda il ciclismo di Luca e l'incapacità per molti di emozionarsi osservando uno spettacolo che tale è sul piano agonistico, ma del quale non si sa bene quale sia la credibilità. È molto credibile invece come nostro commentatore e analista Andrea Zorzi, che saluto con piacere da Belgrado, finale di World League di volley maschile. Bentornato Andrea. Ciao, ben trovati. Come state? Bene, grazie. Bene. Lì invece che aria si respira? Ieri già una prima giornata interessante sul piano tecnico e non solo, mi dicevi. Molto interessante sul piano tecnico per la vittoria nettissima della Serbia nei confronti degli Stati Uniti, che hanno giocato una partita che non è da Stati Uniti, squadra che non molla mai, ieri sera ha preso un 3-0 sonante giocando piuttosto male, ma l'antefatto a ciò che è accaduto in campo è stato che in Serbia, come forse sapete, non mandano a dire le cose con diplomazia ma esprimono l'opinione molto chiaramente, quindi durante l'inno suonato dagli Stati Uniti l'intera gente presente al Parasport ha fischiato. Io pensavo fosse ancora legato al 99, quando la NATO bombardò Belgrado, invece mi hanno detto che la protesta è legata al fatto che negli ultimi tempi gli Stati Uniti hanno riconosciuto il Kosovo come stato indipendente, e questa cosa alla Serbia e ai serbi non piace per nulla. La cosa naturalmente si è risolta in poco tempo, però ti assicuro che qui in Serbia in modo particolare è molto tangibile il senso di, come dire, difficoltà ad accettare delle imposizioni dall'estero, e anche nell'ambito sportivo questa cosa è avvenuta. Ovviamente tutto può essere risolto, anche perché un attimo dopo hanno festeggiato invece i campioni di Sydney nel 2000, i serbi vinsero loro, sì. E quindi fu molto molto importante per loro. Una squadra formidabile quella. Tu mi dicevi anche di essere rimasto molto bene impressionato dall'organizzazione di questo avvenimento, in generale dalla capacità ricettiva che c'è in un paese comunque non grandissimo sul piano delle dimensioni e dei numeri della popolazione. No, sono pochi, ma sono tantissimi a fare sport benissimo. Lo fanno nella pallavolo, nel basket, nella pallanuoto, nella pallamano, negli sport di squadra sono bravissimi nell'ambito maschile e anche femminile, questo è veramente impressionante. Basta guardare alle Olimpiadi la sfilata delle delegazioni, ebbene la Serbia è tra le più numerose, nonostante dal punto di vista della popolazione non sono poi tanti, sono intorno agli 11 milioni, quindi evidentemente la media di atleti buoni per popolazione è altissima. Sul piano tecnico ci sono giocatori che sono da seguire, altri che potrebbero emergere in queste finali di World League, in cui peraltro purtroppo l'Italia ancora una volta è assente? Dunque, l'Italia è assente, questo è un tasto dolentissimo, però ne parleremo in altri momenti, visto che oggi ti parlo invece di una cosa straordinaria. Un ragazzo di 15 anni, ne farà 16 tra poco, cubano. Lo si vede solo perché ha la faccia ancora un po' da pacioccotto, da ragazzino, ma è fortissimo. È veramente fisicamente incredibile, ma soprattutto gioca come un grande, anzi diciamo che finora è stato quello che ha giocato meglio. Si chiama Wilfredo Leon, è 2,2 metri, gioca schiacciatore ed è veramente tecnicamente, ma anche per personalità, un atleta incredibile. Ora è vero che a Cuba alcune volte accade che ci sono dei fenomeni di questo tipo, però questo è veramente impressionante. Abbiamo chiesto ieri all'allenatore Blackwood, il cubano, da dove arrivasse, ci ha spiegato che lui viene da Santa Caterina, una piccola città a nord di Cuba, la madre è una insegnante di pallavolo, il padre è invece un maestro di lotta, quindi famiglia, come spesso capita a Cuba, di grandi sportivi, ma ti assicuro che questo Wilfredo Leon è veramente impressionante, nella mia carriera non ho mai visto uno così giovane e così forte. Per chiudere e per introdurre un po' il tema che domani affronteremo in maniera più approfondita, sei a contatto diretto con Daniele Bagnoli, che sta lavorando con la Russia e vive un'esperienza simile sul piano perlomeno ambientale, quella di Ettore Messina nel basket. Come hai trovato Bagnoli e quali sono le caratteristiche principali del suo lavoro con una nazionale che ha una tradizione spaventosa nel volley? Abbiamo chiacchierato a lungo sulla sua situazione, ha lavorato sia nel club dove però sono solo due stranieri nella pallavolo e adesso con la nazionale dove gli stranieri naturalmente non ci sono, quindi rispetto a Messina per esempio ha a che fare con un gruppo più compatto, Messina ha a che fare con americani, con greci, con russi e ha giocatori di altre nazionalità. Per Daniele Bagnoli invece si tratta di capire un po' la mentalità russa, ebbene mi ha detto che la cosa più complicata per lui è fare in modo che i russi si abituino a tenere alto il ritmo di allenamento non fisicamente ma mentalmente, fanno una gran fatica a stare con concentrati quando gli esercizi richiedono attenzione nei piccoli dettagli. Si è dovuto adattare perché, ha detto, i russi non cambiano facilmente. Sta cercando di trovare un compromesso, la cosa non è facile. Però domani ne parleremo perché trovo sia veramente molto interessante, anche perché, per esempio, gli Stati Uniti propongono una modalità radicalmente diversa di lavoro ed è interessante perché poi queste caratteristiche si rispecchiano perfettamente nel modo in cui le squadre giocano in campo ed è veramente molto piacevole scoprire queste relazioni. Grazie Andrea Zorzi, buon lavoro con la tua rubrica Follow Me, seguitemi sul sito della Federazione Internazionale del Volley e buon soggiorno a Belgrado. Grazie a tutti voi e a domani. A domani con Andrea Zorzi che ritroveremo in A Tempo di Sport. Ora altre telefonate all'800 24 00 24 e anche messaggi che poi vi leggerò al 349 238 6666. Buon pomeriggio a Francesco da Genova. È pronto, ciao. Ciao, prego. Ciao. So, volevo fare una domanda, volevo sapere come mai Moratti non sia stato ascoltato dal Comitato della Giustizia Sportiva avendo parlato con Preziosi il passaggio di Motta e di Milito poco tempo fa, che ho sentito dire sui giornali è uscita la notizia per cui si erano incontrati i due per trattare lo scambio del giocatore essendo Preziosi squalificato e quindi non potendo partecipare a queste, diciamo, queste trattative di mercato. E come mai invece Moggi, solamente perché abbia parlato con la Menarini e anche da parte vostra, sia stato in questa maniera squalida così giudicato, non avendo neanche dopo 3 anni commesso un illecito, almeno che voi non sappiate di un illecito commesso da Moggi, dalla Juventus, dopo 3 anni ancora non è uscito. Ecco, volevo sapere solo queste due cosine qua. Sì, questo non lo so nello specifico, promettiamo naturalmente di informarci perché poi sono questioni molto delicate. Certo, la posizione di Preziosi è sempre borderline, perché alla fine insomma la sua operatività è evidente, per cui insomma ne parleremo in maniera più approfondita magari già tra un po', dopo accurate verifiche, anche se ripeto il tema è un po' delicato, poi lei sta a Genova quindi probabilmente certe cose anche le segue con maggiore frequenza. Andrea dalla provincia di Como, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio, grazie mille. Io volevo fare una piccola considerazione su Giovinco e la Juventus. Allora, io ritengo che Giovinco sia uno dei patrimoni a livello tecnico più forti in Europa, guardi, non mi sento di sbilanciarmi, tecnicamente, poi quanto lui sia all'altezza di reggere certe cose, certi confronti ancora non lo so perché non è stato ancora messo abbastanza alla prova in certi palcoscenici. Volevo appunto chiedere se secondo lei appunto mi sbaglio oppure siamo noi tifosi, perché io tutti i tifosi juventini che conosco la pensano un po' come me. Cioè, a me questo ragazzo piace moltissimo e mi auguro con tutto il cuore che la Juve investa un po' su di lui, cioè lo faccia giocare, gli dia fiducia. Ecco, tutto qua, niente. Non lo so, nel senso che la questione è molto delicata, è molto soggettiva e viene sempre il dubbio sul fatto che prima un allenatore, perché poi la responsabilità veniva data soprattutto a lui, ovvero Ranieri, poi in generale un altro staff tecnico e una società un po' più strutturata non puntino su di lui, questo fa emergere il dubbio che loro che lo vedono quotidianamente abbiano delle perplessità sulla possibilità di costruire su di lui una squadra come la Juventus, con tutte le aspettative e le pressioni che ci sono. L'anno scorso lui ha fatto bene in alcune partite, in altre è stato responsabilizzato oltre quello che era necessario fare nei suoi confronti, come ad esempio la sconfitta con il Palermo in cui Ranieri cambiò modulo e sembrò che l'unica causa fosse quella della sconfitta, in realtà la squadra era in condizioni globali pessime. In altre circostanze lui ha dimostrato di non aver lavorato nella maniera adeguata sul piano difensivo della copertura, si sa che nel calcio moderno questo è importante, è fondamentale anche per un giocatore del suo ruolo. Qualcuno dice con Diego lui imparerà di più a giocare, a lavorare in un certo modo in campo. La mia sensazione è che lui sarà molto più oscurato dalla presenza di questo giocatore che è molto più formato e molto più pronto di lui, e i suoi agenti di Giovinco continuano a dire che non è necessario che lui vada in prestito, che sono convinti che possa rimanere e fare bene alla Juventus. Evidentemente ognuno ha le sue ragioni, le perplessità chiaramente di anno in anno aumentano, perché se nessuno alla Juventus punta in maniera decisa su di lui, evidentemente sono considerazioni che vengono fatte con grande accuratezza. Flavio Suardi in redazione mi ha dato una delucidazione importante su un tema che peraltro mi sembrava di ricordare fosse già stato affrontato. Effettivamente era così in questa sede con Gigi Garanzini, con Marco Bellinazzo, il collega del Sole 24 Ore, relativamente a Preziosi. La differenza nella sostanza rispetto a Moggi starebbe nella inibizione che è stata inflitta a Preziosi e che non gli consente di avere ruoli operativi, ma di avere comunque rapporti con altri tesserati, cosa diversa da Moggi che è squalificato, dunque non può avere nessuna di queste funzioni, nemmeno relazioni con chi opera nel mondo del calcio. Questo per rispondere a un ascoltatore di Genova che in pazienza chiedeva delucidazioni proprio su questa differenza. Alessandro dalla provincia di Udine, buon pomeriggio. Sì, pronto, buon pomeriggio. Io volevo solo brevissimamente ricollegarmi a un annoso, diciamo, discorso anche affrontato ieri in trasmissione, quello della Maiola in campo. Faccio un rapido parallelismo con quello che è anche la società. Cioè, credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che diciamo che il governo, il Parlamento legifera su quella che ormai è una consuetudine che si è ormai secolarizzata nella società. Allo stesso modo, il discorso della Maiola in campo, secondo me, non è della sua applicabilità o meno. Il discorso è che alcune decisioni sono già state prese grazie al Maiola in campo, per cui questo è il problema secondo me principale, cioè ufficializzarla o meno, cioè non è possibile che non sia uno strumento ufficiale ma che venga comunque utilizzato, vedi la testata di Zidane oppure il gol non gol in Confederation Cup, quindi evento recentissimo. Sì, rigore segnato al Brasile, no, è vero, il problema è che sembra che Blatter abbia fatto il passo indietro, cioè tutto quello che le dice è corretto, la realtà è stata così. È stato praticamente acclarato che la Maiola è stata utilizzata, ma non si è fatto il passo ulteriore in avanti per ufficializzare e chiarire questo, bensì si è fatto un passo indietro e Blatter ha detto via i monitor, via le comunicazioni, per quello che si vede sui monitor e che viene mostrato dalla regia, tra quarto uomo e altri ufficiali di gara. Quindi purtroppo, a differenza di quanto accade, come lei correttamente credo diceva, nella società moderna e in tutti gli ambiti, la tecnologia non viene utilizzata per migliorare tutto quanto riguarda il mondo del calcio e anche rendere un po' meno pesante il ruolo degli arbitri. Paolo dalla provincia di Brindisi, buon pomeriggio. Sì, salve, buongiorno. Senta, volevo farle due domande. Una, se lei conosce i dettagli del passaggio di Ibrahimovic ed Eto'o all'Inter. E poi la seconda, credo che... Quelli definitivi, dice? Sì, quelli definitivi, sì. No, ancora no, nel senso che poi probabilmente in questo momento stanno per essere definiti e ufficializzati anche sul piano, diciamo, delle informazioni e dei media, però noi siamo qui impegnati in questa fase in diretta del programma e quindi dettagli esatti no, però intuisco che si vada molto vicino a quanto si è letto in questi giorni, quindi ha un ingaggio altissimo per il giocatore africano sui 50 milioni in 5 anni, ha un ingaggio altrettanto alto per Ibrahimovic grazie alle tasse che si fanno sentire in maniera meno pesante in Spagna sullo stipendio lordo, e ha incentivi poi notevoli anche da parte del Barça per liberarsi di Eto'o, anche se da qualche parte si dice lo stesso Moratti sia intervenuto per contribuire alla buona uscita che l'africano ha chiesto ai catalani. L'altra domanda? Volevo sapere il suo pensiero, ecco, che l'Inter abbia fatto un grande affare, soprattutto nell'ambito dell'organizzazione di gioco, nel senso che così credo che l'Inter diventa più squadra, quindi gioca non solo per un solo attaccante, quindi una sola persona, ma si formi più come un complesso di gioco organizzato e quindi finalizzato da più persone, a differenza di quando stava Ibrahimovic, ecco. Sì, questo è sicuramente così, nel senso che sarà così per le caratteristiche dei giocatori che ora integrano la squadra, e sarà una un'esigenza per Mourinho. A questo proposito, i suoi mormori o i suoi silenzi sono stati interpretati in tanti modi in questi giorni e in queste ore, al di là delle richieste specifiche che lui avrebbe fatto in sede di mercato. La sensazione è che la squadra sia stata costruita con acume tecnico e anche economico. Bisognerà capire se Milito e Eto'o sono compatibili nella maniera ideale, come potevano esserlo Milito e Ibrahimovic, però è anche vero che ci sono poi anche altre alternative. C'è Balotelli pronto a migliorarsi ulteriormente, e c'è una squadra che purtroppo, ripeto, come tutte le squadre d'Europa, anche se Mourinho vorrebbe l'undici perfetto, avrà sempre qualche punto migliorabile o debole, ma si può arrivare in fondo in Champions, come l'ha dimostrato il Liverpool e anche altre squadre, con una buona struttura, una buona organizzazione di squadre, non solo se si hanno i migliori giocatori in assoluto. Marco da Milano, per chiudere i vostri interventi, poi il nuoto con i mondiali di Roma, prego. Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato. Io volevo fare un attimino il punto sulla situazione del Milan, in particolare sul comportamento della società, che mi sembra di totale disimpegno nei confronti del Milan stesso, a fronte di vendite molto remunerative come Kakà, come Corcuffo, come verosimilmente la prossima di Pirlo. Mi sembra che ci sia un totale disimpegno economico nei confronti della squadra stessa, quindi mi chiedo se non è il caso che il gruppo Berlusconi possa pensare a passare la mano, se ci sono dei motivi chiari per questa situazione che possono spiegare questo tipo di comportamento. Grazie. Prego. Beh, motivi chiari, alcuni sono stati esplicitati dalla stessa società, altri sono stati indicati da firme anche illustri, penso ad Alberto Costa sul Corriere della Sera, per volontà familiari non solo del presidente Berlusconi ma anche dei figli. Altri ancora avevano individuato in un gruppo arabo il possibile acquirente futuro per il club, che deve essere risanato. È chiaro che in questo momento la situazione è questa, e se non di disimpegno si può parlare comunque di un'attenzione sul piano economico che è sostanzialmente diversa rispetto a quanto è successo negli anni scorsi. Non che i soldi non venissero curati attentamente, però certamente certe spese adesso vengono valutate e ponderate come con fondamentale discriminante quella economica. Questa è la differenza sostanziale. Non ci sono sul piano tecnico valutazioni che possono far propendere per uno o per l'altro giocatore se il costo è superiore, se un giocatore anche è preferibile, ma se costa di più. La discriminante economica in questo momento sembra decisiva, lo dimostra il fatto che per il nome dell'attaccante sono stati fatti diversi nomi di giocatori che hanno caratteristiche tra loro totalmente diverse, da Luis Fabiano a Dzeko, sino a Huntelaar e poi a Trezeguet. Sono forse quattro giocatori, ognuno differente per il modo di giocare, quindi come era accaduto ad Ancelotti anche per Leonardo. La vera abilità, capacità sarà darwinianamente quella di fare il meglio possibile nel contesto in cui deve operare. Ora i mondiali di nuoto in chiusura. Nissan City Cars. Welcome to Simplicity. Vi presenta Roma 2009, Mondiali di nuoto. Benvenuto a Dario Ricci, nostro inviato mondiale di Roma. Dario, giornata, mattinata di medaglie e anche di ricorsi per i nostri colori. Qual è la situazione in questo momento? Beh, un bronzo è sfumato perché il ricorso presentato da Valerio Cleri per il contestato arrivo ieri della 10 km di fondo uomini è stato prima accolto, ma poi è stato accolto anche il contrappello statunitense, quindi Valerio rimane ai piedi del podio. In bronzo invece è arrivato, splendido, straordinario anche per l'emozione vissuta nella piscina del Foro Italico, da Beatrice Adelizzi, terza nel sincro libero, prima medaglia della storia del nuoto sincronizzato italiano, alle spalle della russa Ischenko e della spagnola Mengal, due veri e propri mostri sacri della specialità massima. Sentiamo proprio Beatrice Adelizzi con le dichiarazioni che ti ha rilasciato dopo il bronzo ottenuto in mattinata. Ho dato veramente il massimo in questo esercizio, che probabilmente era quello che mi vestiva meglio, in quello su cui avevamo puntato di più sin dall'inizio, e è andata bene. Beatrice, quanto pesa proprio questa medaglia per questo sport, per il futuro di questo sport? Spero che abbia un grande peso, che aiuti tutte le sincronette che si stanno avvicinando in questo momento al mondo agonistico a crederci, a lavorare al massimo e a non arrendersi mai, perché ne vale veramente la pena. Sono stati anche giorni di polemiche sulle giurie, anche in questa gara, in qualche modo per il primo posto. Da questo punto di vista, quali possono essere i passi in avanti da fare? Purtroppo il nuoto sincronizzato è uno sport soggettivo e soggetto a votazioni. Però noi atlete non dobbiamo pensare a questo, perché comunque si valuta l'esercizio in primis. Sono le allenatrici che lo devono valutare, l'esecuzione dell'esercizio. Il risultato, le votazioni vengono dopo. Poi se vengono anche quelle, tutto di guadagnato. Bellissimo, è la prima volta che trovo un pubblico così accogliente in una gara di nuoto sincronizzato. Pensare che a Pechino c'erano giusto i miei genitori e basta, a farci del tifo. Invece questa gara è stato proprio bello. Vincere questa medaglia a Roma è stata veramente una grandissima soddisfazione. Una dedica, Bea. Innanzitutto alle mie allenatrici, Laura De Renzis, e a tutto lo staff, alle mie compagne, che comunque è un lavoro di gruppo, alla mia compagna di doppio Giulia, ai miei genitori, alla federazione, ai miei amici, a tutte le persone che quest'anno mi hanno aiutato, hanno creduto in me e mi hanno regalato un sorriso. Questa era la soddisfazione di Beatrice Delizzi. Grazie a Dario Ricci per il suo contributo quotidiano, che torna domani con i mondiali di nuoto, a Flavio Suardi in redazione, a Peter Bescapè in regia. Grazie a voi per averci seguito, a risentirci su Radio 24 da Massimo Callegari. Roma 2009, mondiali di nuoto.